altro programma. Inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Finalmente il nostro appuntamento del sabato, deve passare un'intera settimana, ma questo per darvi anche modo, tempo di ragionare su tutte le cose che succedono da quando ci lasciamo sabato al sabato seguente. Quante notizie anche questa settimana, che cosa avete voglia di raccontare oggi, su quale notizia avete voglia di ritornare. 800 24 00 24, ce ne sono veramente moltissime ogni settimana. Io ne focalizzerei qualcuna in particolare, però intanto vi faccio come sempre un brevissimo riassunto, no? Perché a volte, lo dico spesso, sono talmente tante le cose che abbiamo per la testa che quando ci si fa una domanda molto specifica, come per esempio qual è il tuo film preferito e ne hai visti centinaia nella tua vita, non sai dirlo al momento. Ma insomma, questa settimana l'emergenza rifiuti sicuramente è stata dominante, no? A parte che sono anni, diciamo, che il problema c'è, ma in particolare poi in questa settimana, oggi appunto De Magistris diceva che c'è, è appurato che ci sia dietro la camorra, è stata aperta anche un'inchiesta dalla Procura di Napoli sull'emergenza rifiuti. Il governo ha promesso un decreto, bisogna in qualche modo fronteggiarla. Ci sono le tensioni con la Lega che dice attenzione che non sia un decreto con dei trucchi perché sennò volano le sedie, non ho capito se deve essere una specie di miracolo questo delle sedie che volano o che cosa. Comunque poi quindi da qui si arriva alla politica italiana con la verifica parlamentare che c'è stata in questi giorni, era stata chiesta da Napolitano a Berlusconi, c'è la maggioranza assoluta per il governo, per il centrodestra, ci sono tensioni all'interno della Lega, quindi non solo tra Lega e PDL ma anche all'interno della Lega dopo Pontida, in particolare tra Bossi e Maroni. C'è poi questo colloquio misterioso tra Di Pietro e Berlusconi che ha creato tutto insomma uno sciame di ipotesi, di illazioni, anche di scontento per esempio per quelli che sono i seguaci di Di Pietro, se guardate poi su internet. Che cosa ne pensate? Qualcuno già lo tratta un po' come un trasformista, come Scilipoti 2 la vendetta, e poi staremo a vedere anche con la vostra interpretazione. Poi Obama, il presidente Obama, presidente americano sull'Afghanistan, che ha annunciato un pochino a sorpresa che ritirerà entro il 2012 30.000 militari, con i generali che però sono piuttosto contrariati perché dicono insomma è un po' eccessivo questo ritiro. Poi per restare sull'estero anche una vicenda drammatica che in realtà dura da anni con delle recrudescenze in certi periodi, la guerra civile in Congo in questi giorni, una violenze di massa e soprattutto stupri e danni di donne e bambini. Forse bisognerebbe focalizzare anche un po' più queste notizie dai media in generale. Per ritornare all'Italia, l'inchiesta P4 con questo intreccio tra affari e politica, questo sottobosco che sta di nuovo riemergendo, qualcuno dice a proposito di intercettazioni, sempre grazie alle quali queste cose sono state scoperte, e che sono irrilevanti, in parte magari lo sono, ma in buona parte no, dice per esempio il procuratore di Napoli, dice sarò pure io, i giudici, i magistrati che devono deciderlo. Poi la maturità, i temi che sono stati scelti questi giorni di esami per gli studenti, insomma sono moltissimi. E poi se volete anche argomenti, ecco, mi interessa sapere per esempio cosa ne pensate del manifesto del PD per la festa dell'unità di Caracalla, poi lo approfondiremo anche con dei commenti che ci sono stati per esempio sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni. 800 24 00 24. E prima di presentarvi l'opinionista estemporaneo di oggi che commenterà insieme a voi, insieme a me, i fatti della settimana, che cos'è che ci ricorda questa settimana che non ci sono più le mezze stagioni? Ebbene, anche la saliva non è più quella di una volta, un po' di saliva, sputacchiava, faceva niente di che. Poi, per carità, c'è stato il DNA, no? Quindi all'interno della saliva poter, con uno schizzetto proprio, poter raccogliere il DNA di una persona. Adesso pensate, questa è una ricerca dell'Università di Los Angeles, con un campione di saliva è possibile risalire con un'esattezza incredibile, un'estrema accuratezza senza precedenti all'età di una persona. Quindi state attenti, se nascondete la vostra età, fate uno starnuto, uno immediatamente può capire voi che età avete. Quindi anche la saliva non è più quella di una volta, mentre le cose restano sempre simili a se stesse. In Italia per esempio anche questa settimana due omicidi di quelli che avvengono in Italia, almeno due alla settimana, un uomo ha ammazzato la moglie in provincia di Savona, poi si è tolto la vita, e un giovane ieri di 20 anni ha ammazzato la sua ex dopo averla violentata e ha ucciso anche il fratello di lei. Quindi questo ci dice che siamo sempre più o meno, c'è un trend sempre regolare. Ma signori e signore, chi è l'opinionista estemporaneo di oggi? G Giampiero Mughini. Giampiero? Pronto? Pronto, caro Giampiero. Eccoci, scusami cara, devo dirti che non ti sento a meraviglia, se poteste aumentare un pochino perché non ti sento a meraviglia, comunque ecco. No, non mi si può sentire, non sentire a meraviglia, quindi chiedo a Paolo Corleoni, la parte tecnica, hai alzato molto l'audio di Giampiero? Mi senti un po' più a meraviglia, un po' meglio, un po' deliziosamente? Va benissimo, va bene, dai, grazie. Giampiero Mughini, lo conoscete, giornalista, scrittore, personaggio molto originale, e ha appena pubblicato un libro per Bompiani che si intitola, anche il titolo è molto originale, questo uno leggendolo può avere, diciamo, un momento così di un impatto un po' duro, si intitola In una città atta agli eroi e ai suicidi, Trieste e il caso Svevo. Questo è un viaggio di Giampiero attraverso i personaggi che hanno fatto la storia di Trieste, che è una città di cui in genere si parla un po' poco, una città di grande fascino. Però Giampiero, prima di occuparci del tuo libro, mi dici qual è la tua notizia della settimana? Cos'è che ti ha colpito in particolare? Beh, naturalmente dire una è sbagliato, naturalmente. Ah, poi ne parleremo un po' di tutte, però una che ti viene in mente così subito. Ma il casino italiano, che è di proporzioni nefande, certamente. Dal punto di vista politico, dici? Beh, ma sai, politico, civile, la monnezza è assieme... questione meridionale, questione napoletana, politica, partiti. Sai, a Napoli avevano eletto un sindaco il quale aveva promesso di togliere via la monnezza in 5 giorni. Sono quelle cose che non si dovrebbero dire neppure in stato. Su questo sono d'accordo, anche perché De Magistris, diciamo, per carità, è neosindaco e da pochissimo, però siccome anche Berlusconi ha promesso tante volte in brevissimo tempo, certo, non fatele queste promesse. Sono cose che non andrebbero dette, non si, mai. O si mantengono o non si dicono. No, ma poi no, cosa devi mantenere? Lì c'è una questione, uno snodo che tocca la antropologia napoletana. Loro hanno a Napoli un livello di raccolta differenziata che è pari al 19%, laddove la comunità europea raccomanda un minimo del 35%, e questo è uno. Secondo, io non so se sia vera questa notizia, però l'ho letta nei giorni scorsi, che a Napoli l'evasione della tassa sulla monnezza è pari a oltre il 70%, cioè, secondo questa notizia, io non rispondo, l'ho letta però su un giornale, sì, no, non su un bollettino, oltre 70 napoletani su 100 non pagano la tassa sulla monnezza. Cosa dobbiamo dire? Questo problema a Napoli esiste dal 1994, sono passate giunte le più diverse, quindi la politica c'entra poco, probabilmente c'entra molto la camorra, con la sua forza, con la sua organizzazione, con i suoi interessi. Cosa vuoi che ti dica? Certo, lo spettacolo di quella città, in sé per sé una delle città più belle del mondo, più belle del mondo, è sepolta dalla monnezza e a rischio epidemia, è roba. Tu hai citato il Congo. Beh, ma il Congo ce l'abbiamo in Italia. Per fortuna non per quegli aspetti, ma per altri un po' più arretrati, diciamo. Invece Giampiero, protagonista del tuo libro, è Trieste. Trieste che città è? Beh, è una delle grandi capitali della nostra storia civile e culturale. È stata la città per la quale abbiamo fatto una guerra, la Prima Guerra Mondiale. È stata una città che era un crogiuolo di culture, di lingue, di etnie, di personalità, una città dove è stato fortissimo, eccezionale lo slancio perché fossero italiani, e poi una città dove si muovono tra fine 800 e inizio 900 un gruppo di personaggi assolutamente straordinari. Italo Svevo, il capintesta, Italo Svevo, l'uomo che fonda il moderno romanzo italiano, uno dei più grandi scrittori italiani di tutti i tempi. Di recente a Torino hanno indicato 15 libri che sono i 15 libri sacri della storia italiana tra 1861 e adesso, abbiamo festeggiato i 150 anni, e ovviamente c'è il terzo dei libri di Svevo, che è La coscienza di Zeno, ma assieme a lui in quella Trieste c'è un poeta come Umberto Sabba, un giornalista culturale come Silvio Benco, le due medaglie d'oro, Gianni e Carlo Stuparic. E a proposito di medaglie d'oro, c'è a Trieste una famiglia, la famiglia Slataper, che in due generazioni si è conquistata 7 medaglie al valor militare, 7 medaglie al valor militare, 3 d'oro, 3 d'argento e una di bronzo. È una città, insomma, un ragazzo di 20 anni oggi probabilmente non sa chi era Scipio Slataper. Questa non è una buona cosa. Comunque, insomma, grande la città di Trieste, la trovate poi raccontata anche attraverso appunto questi grandi personaggi che l'hanno caratterizzata, che l'hanno resa famosa nel libro di Giampiero Mughini, Una città atta agli eroi e suicidi. Però volevo già sentire qualche ascoltatore prima e qualche ascoltatrice prima della viabilità. C'è per esempio Ercole da Ravenna, l'800240024. Ercole? Pronto? Sì, volevo dire che la notizia più interessante secondo me è che dopo il festino di elezioni e di liti furibonde eccetera, finalmente vediamo che qualcuno comincia a fare i conti con i numeri e con la realtà. A Napoli sembrava che domattina la raccolta differenziata, ma non è così. A Milano Pisapia salta fuori con 180 milioni di, che non so se è vero o non è vero, si avrebbe lasciato la Moratti già qualche cosa che non è vero. Ma la cosa importante, se Berlusconi e Di Pietro si fossero veramente detti qualche cosa che non fosse la lite ventennale, vorrebbe dire che ci saremmo accorti che siamo sul Titanic, dove invece di ballare stiamo litigando per stupidaggini, e invece sarebbe ora di cominciare a ragionare insieme per tirar fuori l'Italia da questa situazione. Questa è una notizia più interessante. Spero che qualcuno la colga, ecco, che non si rimanga sempre sulla lite tutti insieme su delle cose che non hanno niente a che fare con la salvaguardia dell'interesse dei cittadini italiani. Ercole, ti ringrazio e tra poco proveremo a fare anche quello che faccio di solito, l'unica trasmissione che lo fa questa al mondo, non solo un collegamento poi con un altro pianeta, ma anche con il Parlamento. Abbiamo proprio un canale privilegiato, diretto, per capire se è vero che continua a litigare o forse magari tra vari richiami eccetera può darsi invece che le cose si siano calmate. Adesso c'è la viabilità, aggiorniamo quindi chi sta viaggiando e poi mi piacerebbe sapere appunto cosa ne pensate sull'emergenza rifiuti, cosa ne pensate di questo colloquio misterioso e anche di questo qualcuno che chiama riposizionamento di Pietro nell'agone politico italiano, e anche del manifesto, se avete avuto modo di vederlo, del PD per la festa dell'unità, con queste gambe femminili, una gonna che svolazza sopra e delle mani che cercano di tenerle ferme sopra il busto, non si vede, che richiama un po' l'immagine di Marilyn, no? Quando la moglie va in vacanza, che è stato molto criticato soprattutto dalle donne, dicendo ecco, poi anche a sinistra alla fine si usa il corpo femminile in un certo modo. Giampiero Mughini, il mio opinionista estemporaneo di oggi, che ha appena pubblicato per Bompiani In una città atta agli eroi e ai suicidi, Trieste, il caso Svevo. Ma volevo sentire, prima di proporre a Giampiero Mughini il caso di Pietro, volevo sentire Alfonso da Firenze. Alfonso. Salve Roberta. Salve Alfonso. Scusa, visto che sei subito così pimpante, così pronto, Alfonso, volevo chiederti, chiami da Firenze, proprio in questi giorni si è inaugurata una grande, ulteriore area pedonale a Firenze che ha suscitato un po' di scontenti da una parte, soddisfazione dall'altra. Tu che ne pensi? Stai proprio a Firenze? Sì, io mi trovo a Firenze e dico che più o meno, vabbè, è un'operazione di immagine più che altro. Solo di immagine. Però una città come Firenze forse merita anche di avere una più vasta area dove si possa camminare tranquillamente e godersi la città senza macchine che vanno avanti e indietro, il traffico, lo smog, il rischio di essere messi sotto. No, non è una bella città da passeggiare, diciamo, Firenze. No. Perché è piccolino, tutto sommato. Beh, però il centro storico è un centro anche così peculiare, no? Che farci passare le macchine, per esempio, mi pare che sia stata allargata a Piazza Pitti, via Tornabuoni, dove ci sono anche i negozi, si prestano anche abbastanza queste zone oltre a Piazza Duomo, no? Per la pedonalizzazione. Sì, ha creato però dei problemi agli invalidi. Dei problemi? Agli invalidi, che difficilmente potranno accedere a Piazza Pitti, che si trova al culmine di un pendio. Beh, questo certo è un altro punto di vista che magari non si valuta. Alfonso, ma la tua notizia della settimana qual è? Ma forse è una non notizia, perché io vorrei sapere infine chi è il signor Bibi Smaghi che sfida il presidente di Francia e implicitamente anche Berlusconi. No, ma non lo sfida più. Bini Smaghi faceva parte della Banca Centrale Europea, l'italiano, diciamo, messo lì, collocato, perché poi ogni paese che fa parte dell'Unione Europea vuole naturalmente, soprattutto quelli più importanti, un suo rappresentante. Gli è stato chiesto più volte ultimamente di dimettersi, perché la Francia diceva: se volete, Draghi a presidente della Banca Centrale Europea, come ieri è diventato ufficialmente, però che ci sia un solo italiano, Bini Smaghi si dimette e dia quel posto ai francesi. Ha tenuto per un po' Bini Smaghi, poi gli devono avere comunque promesso un'altra collocazione, forse potrebbe anche diventare capo della Banca d'Italia in cambio, quindi la questione è risolta comunque, Alfonso. Siamo a posto. Credo che non ci ha perduto, no? Non credo che ci abbia perduto, no. Poi cadono un po' tutti sempre in piedi. Grazie Alfonso. Invece volevo chiedere a Giampiero Mughini. Giampiero, sai, allora, no, perché tante chiacchiere, tanto scontento, tante illazioni, ipotesi, ha creato questo colloquio tra... Scusami, ma cosa c'è da fare illazioni su un colloquio di 3 o 4 minuti sotto le telecamere, un colloquio fra 3 e 4 minuti, e vedo che lì sui vari blog, allora i più fanatici dei seguaci di Di Pietro gli dicono: gli dovevi sputare in faccia. Ma è possibile, no, che noi si sia arrivati a questo livello di barbari? Senti, però mi pare il gesto di Berlusconi. L'hai apprezzato. Di Pietro è uno dei suoi nemici mortali. Acerrimi. Uno che quando parla di Berlusconi, l'aggettivo più piccolo che usa è, insomma, devastante. Gli stupratore della democrazia. Mi immagino gli abbia detto: ma perché non proviamo qualche volta a dire di cose concrete? Lì Di Pietro aveva l'aria di uno che stesse per essere contagiato, non so se di lebbra o di AIDS, non ha detto nulla, e poi per i fatti suoi, Giampiero, però scusami, da Berlusconi, ha invece detto: noi qui a sinistra siamo in questo momento passivi, nessuno prende iniziative, eccetera, che è tutt'altro discorso. Giampiero, ma io avevo preparato... Ho molto apprezzato il gesto del Berlusconi. Avevo preparato 4 buste. Perché veniva dopo una serie di insulti, minacce, i magistrati che sono un cancro, quelli che sono... Quindi, siccome, come è stato detto, un gesto anche, di conciliazione. Si chiamasse Ettore, il primo dei tuoi ospiti, no? Sì. Ercole, Giampiero, però volevo chiederti questa cosa. Io avevo preparato 4 buste per te, no? E quindi mi stai già dando una risposta. Io volevo chiederti se, in base a questo un pochino, un leggero riposizionamento di Di Pietro, tu giudichi, adesso ti do le 4 buste del titolo delle buste, tu mi dici quale preferisci. Vuol dire questo gesto di Di Pietro, che Di Pietro ha un cuore tenero, un cuore confuso, busta numero 2, un cuore realista, busta numero 4, un cuore trasformista, un cuore dantennista, che non c'entra, ma siccome fa rima, che cuore ha secondo te? Per innanzitutto io non vedo dove sia il riposizionamento di Di Pietro. Per quanto riguarda il colloquio, il gesto che dirò di civiltà lo ha fatto Berlusconi. Di Pietro non è che si sia riposizionato, ha detto lì, qua a sinistra, perché come tu sai la sinistra è fatta di 4 o 5 o 6 sinistre, cioè tra D'Alema e Vendola ci sono le stesse parentele. Sì, poi parleremo di Vendola. È un cinese antico. E allora in queste 4 o 5 sinistre Di Pietro non vuole apparire, sembra, come il più trinariciuto, il più accanito nell'opposizione frontale, eccetera. Perché questo, per chiunque abbia superato la scuola elementare, appare evidente che la sinistra non può andare avanti a furia di sganassoni dati a Berlusca, perché gliene può dare 10, 15, lo mette knockout, Berlusca viene esiliato alle Bahamas, va benissimo, dopodiché la monnezza, le tasse, le pensioni, la sanità, la guerra in Libia, o no? Cioè, dici, deve avere un suo programma. Senti, sentiamo Maria Teresa da Napoli all'800240024, poi aspetta Maria Teresa, vorrei dare un minimo di soddisfazione anche a tutti quelli che hanno partecipato alla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, andate a cercarla, è Roberta Giordano, Non ci sono più le mezze stagioni, per esempio sulle frasi anche piuttosto colorite di questa settimana, piuttosto curiose, da Roberto Castelli, che ha detto: i romani sono culturalmente arretrati, ci sono stati vari commenti, voi cosa ne pensate? O Pierluigi Bersani, che è rivolto al governo, ha detto: voi campate non sul premio di maggioranza ma sul premio di transumanza. E poi Umberto Veronesi, che in risposta al sindaco di Sulmona, che aveva detto che l'omosessualità è un'aberrazione eccetera, ha detto: quello omosessuale, ha detto Umberto Veronesi, è l'amore più puro, al contrario di quello eterosessuale che è strumentale alla riproduzione. Giovanardi ha detto: è un delirio estivo, ma mi sembra che invece comunque sia una cosa, tutto l'amore puro in realtà, però voluto forse, diciamo, in un momento in cui vengono fuori un po' di così dichiarazioni omofobe, forse ha voluto, diciamo, esagerare anche dall'altra parte. Maria Teresa da Napoli, dici tutto. Roberta, grazie di avermi chiamato, e lei è molto simpatica e molto brava. Se lo dici tu, Maria Teresa, mi fido. Ho ricordato dottor Mughini che in realtà a Napoli non si fa la differenziata in tutta la città per questioni di soldi, si fa solo in alcuni quartieri, per esempio ai Colli Aminei, dove la percentuale è molto alta, anche se non la ricordo bene, comunque supera i 35, e a Bagnoli, dove per esempio arriva addirittura il 91. Addirittura. Inoltre noi in casa la facciamo la differenziata, anche se poi nessuno se ne rende conto, e fino a 10 anni fa, più o meno, nella zona dove vivo io, che è centro storico, Salita Tarsia, si faceva la differenziata anche se non porta a porta, e noi la facevamo. Poi ci rendiamo conto che la società della spazzatura, diciamo la SIA, la buttava tutta insieme, e improvvisamente il comune la staccò senza darci spiegazione. Così voglio dire, non è un problema di cittadini incapaci, è un problema di soldi e di organizzazione. Grazie Maria Teresa, è stata molto sintetica. Grazie, buon lavoro. Molto. Buona continuazione a te Maria Teresa, salutaci Napoli. A questo momento però dobbiamo salutare anche, diciamo, ci eleviamo un po' sopra la terra, perché per avere un punto di vista a volte anche diverso, no? Si può per esempio collegare anche in modo extraplanetario. Riflessioni da Marte. Anche qua su da Marte risulta evidente: il globo terracqueo, in particolare l'italico stivale, è il mondo della no-noia zone, della zona di non noia, praticamente insomma dove non ci si annoia mai. Ecco. Intanto si capisce che sul pianeta Terra bisogna sempre guardarsi le spalle, pure la testa. Quando si pensa infatti di potersi affidare a qualcuno, no, di apparentemente innocuo, morbido, accogliente, è lì che si rischia la fregatura. Già, sembra incredibile, ma il nemico numero uno del bipede terrestre è il cuscino. Lo conferma uno studio condotto dal Servizio Sanitario Nazionale Britannico, secondo il quale, pensate, passati 2 anni, il guanciale cui si affidano compiaciuti i propri sonni diventa un covo di autentiche schifezze. Dopo 2 soli anni di uso ininterrotto l'uso, anche se passate qualche notte da un amico o dall'amante o in vacanza, sia chiaro, dopo 2 anni, dicevo, un terzo di un cuscino standard, di un normale cuscino, è composto a questo punto per lo più di acari della polvere, secrezioni degli acari medesimi, pelle morta, batteri e saliva. Che schifo, dirà qualcuno, un vero e proprio incubatore di germi e terreno fertile per un'incredibile varietà di malattie che non stiamo qui a elencare. Praticamente un potenziale attentato terroristico racchiuso in un saccottino. Saputo questo, probabilmente qualcuno potrebbe dopo 2 anni annunciare la secessione dal cuscino inutile, corrotto e dannoso. Ma a proposito di terrorismo, sapete che il marketing è disciplina che chiunque voglia avere successo non può ignorare. Ebbene, anche Mr. Bin Laden, uomo di mondo, è stato rivelato che stava progettando, pensate, di cambiare nome ad Al-Qaeda. Perché, vi chiederete? Perché riteneva che ormai il marchio non facesse più paura a nessuno, neanche ai castori. E stava quindi pensando a come sostituirlo, esattamente come si fa, insomma, per un deodorante, per un nuovo cheeseburger. E a proposito, se come recita il titolo del tema più scelto in questa maturità, siamo quello che mangiamo. Che si mangia, secondo voi, per esempio, Giovanardi? Così è una curiosità come un'altra. E quelli che hanno ideato il poster per la festa dell'unità, e il deputato leghista che durante una trasmissione ha risposto a una collega del PD che accusava la Lega di essersi calata ultimamente le braghe, e le ha risposto: se ci caliamo le braghe noi, può esserci una bella sorpresa per te. Forse gli intendeva dire, parlando di bella sorpresa, che finalmente si è capito definitivamente, dopo tante ricerche, dove si annida il batterio killer: su un germoglio piccolo, piccolo, piccolo. È l'uomo per me, fatto apposta per me. È forte con me, da uomo sa dir parole d'amore. Correrei subito alle telefonate. Tra poco vorrei sentire Giampiero Mughini su questa cosa, Giampiero, che, alla quale hanno dato anche i loro commenti molti facebookiani sulla pagina di Non ci sono più le mezze stagioni, a proposito di, del sito Huffington Post, che è uno dei siti più seguiti negli Stati Uniti, è tenuto da una nota giornalista, che ha titolato in questi giorni Vendola è il vero rivale, il principale avversario di Berlusconi. Vorrei sapere poi tu cosa ne pensi, e poi dirò anche che cosa ne pensano appunto i frequentatori della pagina Facebook assidui di Non ci sono più le mezze stagioni. Però ci eravamo lasciati con Roberto da Messina. Caro Roberto. Eccomi. Sì, quindi vuoi parlare del colloquio tra Di Pietro e Berlusconi? Eccomi. Sì, eccoci. Io non sono tanto scandalizzato, giustamente come ha detto Mughini, del breve colloquio, quanto del discorso che Di Pietro per 20 anni ha inseguito tutte le argomentazioni del governo. Quindi poi sentire magari dire, guarda che il Premier è una persona sola, che se ci sono dei programmi validi io li vado ad appoggiare, vorrei capire in effetti quali sono questi programmi, visto e considerato che lo Stato sociale, la disoccupazione, le pensioni restano un problema per tutto il Paese, e che ovviamente l'opposizione sembrerebbe neanche preparata a tutto questo discorso. Quindi Di Pietro ha inseguito le piazze con le varie manifestazioni eccetera eccetera, e oggi sentire dire questo è una cosa che sorprende un po'. Diciamo, negli ultimi tempi elenco un po' di espressioni che ha utilizzato per definire Berlusconi: da stupratore della democrazia, novello Nerone, la testa della piovra, il nostro Gheddafi. Senti, ma un'altra cosa che ho sentito, ma soltanto mi pare in un TG, Roberto, è che Di Pietro ha detto finalmente, come se fosse stato uno sfogo, io non sono di sinistra. Secondo te dove sta? Ma io credo che non sia neppure di centro, perché cioè con questo tipo di dichiarazione va a disorientare, e non meraviglia più di tanto poi tutti quei deputati che sono scappati dall'Italia dei valori a questo punto. Grazie Roberto. Do una notizia, che di oggi c'è stata un'esplosione di gioia a New York, perché lo Stato di New York è il sesto Stato americano a legalizzare le nozze gay, quindi c'è una grande festa in piazza, ed è il sesto, appunto, ce ne sono anche diversi Stati in Europa, ma immaginate la grande mela, insomma, come possa accogliere una notizia del genere. Irene da Torino all'800 24 0024. Irene? Pronto? Irene? Pronto? Sì, mi senti? Pronto, mi sente? Io ti sento, Irene. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, io volevo intervenire sulla questione della gonna che lei ha sollevato. Ho sollevato la gonna? Ho sollevato... Ha sollevato sia la gonna che la questione. Ah, molto bene. Sì. E del manifesto del PD, della Festa dell'Unità di Roma. Sì. Perché perché io ho 26 anni, le gonne le metto sempre, e trovo che questa sia veramente una questione irritante. Perché sembra quasi adesso che da sinistra, che dal movimento delle donne, eccetera, venga l'incitazione a coprirsi che 50 anni fa veniva dall'altra parte. Io non lo so, trovo che queste questioni di principio siano... Ma non è tanto quello, Irene, è che io personalmente, che sono femminista e non ho paura di dirlo, sembra che uno ogni volta dice sono femminista, una specie di omicida, devo dire che non ho trovato questa cosa particolarmente scandalosa, queste gambe senza un busto sopra con la gonna che uno cerca di tenere giù, e il titolo è Cambia il vento, ecco che cosa giustificherebbe. Non è una roba di gran fantasia, infatti Maria Laura Rodotà proprio ieri sul Corriere ha detto non è una cosa particolarmente scandalosa, antifemminista, è che è proprio la mancanza di fantasia, perché dice sì, le belle gambe sono un richiamo facile, i dibattiti irrilevanti sono un hobby della sinistra, ma non si può perdere tempo. Il punto dice questo, però che manca la creatività, dice potrebbero trovare delle altre cose, delle altre idee, degli altri soggetti, manca la creatività nei manifesti e nella politica, secondo Maria Laura Rodotà. Ma non manca solo la creatività, manca la serietà, mancano le proposte, mancano le idee, e secondo me proprio per quello andare a incaponirsi su questa cosa qui è sterile, anche perché davvero poi lei dice io sono una femminista, io devo dire grazie a lei e a tutte le femministe se ho un lavoro, se posso non sposarmi, se posso fare una vita, perché tutte queste cose siamo d'accordo, un debito simbolico, anche se io devo il debito a quelle che sono più grandi di me effettivamente, sì, e comunque tutte lo dobbiamo a qualcuna, cioè, io lo riconosco in toto, proprio per questo che un movimento che ha ottenuto delle cose così importanti si incaponisca su queste stupidaggini. Tra l'altro poi, secondo me, facendo passare un messaggio molto nocivo, che è quello che sinistra e destra sono tutti uguali. Non sono tutti uguali. Questa è una campagna che è fatta per fare un po' discutere, fatta per fare un po' il dibattito. E sì, in effetti, di mediocre creatività. Dall'altra parte c'è un capo di imputazione per lo sfruttamento della prostituzione minorile. Allora, io non lo so, non è uguale. E poi, a furia di fare così, certo che poi se ci incaponiamo sempre su queste questioni di principio, poi certo che non si va mai avanti. Irene, posso solo chiederti se ti va, di cosa ti occupi nella vita? Sì, io faccio la giornalista e la ricercatrice per un centro studi. Grazie Irene, grazie col tuo contributo a questo dibattito, che non so di che cosa pensa Giampiero Mughini di questa polemica. Giampiero? Ma ne ho anche scritto sul portale giornalistico Tiscali, in cui collaboro. Allora, innanzitutto... non è un manifesto creativo, se ne stanno parlando tutti i giornali, se ne stiamo l'obiettivo parlando è raggiunto, tutti no? Noi, è un manifesto azzeccato. Sì, sicuramente. È un manifesto azzeccato, tanto più che in politica, siccome per l'appunto travedere facce, sentire slogan vecchi di 50 anni, eccetera, meglio vedere un bel paio di gambe femminili dove non c'era nessuna malizia, dove c'era una citazione, come tu hai detto, dal film di Marilyn, dove non c'era nessuna volgarità. Allora quelli di destra dicono: ma scusa, ma allora le ragazze dell'Olgettina? No, le ragazze dell'Olgettina erano abbastanza volgari di per sé, questo non c'è dubbio. Cosa c'entri poi il femminismo con tutto questo? Io non lo so proprio, perché l'orgoglio del corpo femminile è stata una delle grandi rivoluzioni. L'orgoglio nell'esibire il corpo femminile è stata una delle grandi rivoluzioni di quegli anni 60 e 70, 60, che sono stati i più belli del secolo. Quindi nessuna discussione pruriginosa, nessun bigottismo, perché di bigottismo in questo paese ne abbiamo avuto e ne abbiamo a bizzeffe, e viva le belle gambe e tanti auguri alla festa dell'Unità. Senti, caro Giampiero, però ti dicevo, no, che sulla pagina Facebook molte ascoltatrici e ascoltatori hanno commentato questo titolo dell'Huffington Post, il sito americano, sì, che parlava, ha fatto questa intervista a Vendola e lo presenta come il principale avversario di Berlusconi. Sì, aspetta, aspetta un attimo, aspetta, ne sappiano particolarmente del nostro paese, naturalmente da escludere nel modo più assoluto. Che loro nel fare un'intervista a Vendola facciano un gran titolo è del tutto naturale. Vendola in questo momento cos'ha? Elettoralmente ha tipo il 9%, mi pare, il suo movimento, il cosiddetto SEL. Uno con il 9% diventa l'alternativa generale alla coalizione di centrodestra, mi sembra un po' difficile. Lui ne ha azzeccate un paio, ha azzeccato soprattutto Pisapia a Milano. Pisapia era il suo candidato, non il candidato del PD, che era un architetto buonissimo, strapresentabilissimo, Stefano Boeri. Allora Vendola ha azzeccato questa mossa. Vendola indubbiamente è una faccia più telegenica che non tanti parrucconi, eccetera, eccetera. Però che lui possa rappresentare, capeggiare l'alternativa, un'alternativa che ha bisogno del 45-50% di voti, non so come. Cioè Vendola si porta appresso Casini, Bersani, D'Alema, diciamo i liberali moderati, eccetera. Come fa a portarseli? Con quali proposte? Anche perché poi, come tu sai, per Vendola vale la battuta di D'Alema, come poeta ne conosco di migliori. Senti, però sentiamo invece che vena poetica hanno gli ascoltatori sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni. Stefano Landi per esempio dice a questa Vendola potrebbe essere il vero rivale di Berlusconi, dice potrebbe ma non credo. Gioacchino scrive no, è lui stesso, cioè Berlusconi il nemico di se stesso. Per Francesco non sembra molto favorevole, dice siamo messi bene, insomma, se Vendola è il vero avversario. Fulvia scrive a me piace piace molto. Per Robert dice: sarebbe vero se il principale nemico di Vendola non fosse Bersani, perché poi naturalmente ci sono anche un po' queste lotte intestine che già appunto Giampiero Mughini aveva un po' prima accennato. Sono dimenticato una domanda, perché adesso da qua dallo schermo qui non lo vedo più. Facebook, pagina Facebook, c'era Corrado che voleva fare una domanda a Giampiero Mughini, mio opinionista estemporaneo di oggi, su un litigio che tu avresti fatto con Nanni. Forse intendeva Moretti, ha scritto solo Nanni confidenzialmente, il Nanni. Comunque torniamo alle telefonate. 800 24 0024 c'è Annibale dalla provincia di Cremona. Annibale, pronto? Ciao. Pronto. Ciao Annibale. Io volevo parlare dei rifiuti, posso? Sì, certamente, ti ha concesso, ci mancherebbe altro. Allora io dico che la colpa è dei cittadini di Napoli, ma la colpa più grossa sono degli amministratori. Io vivo in un posto che facciamo l'85% della raccolta differenziata. Provincia di Cremona, come si chiama? Non esistono, provincia però mi danno le strutture, mi danno i recipienti di mettere il vetro, la carta, la plastica. Il problema non esiste. A Napoli comandano tutti e non comanda nessuno, perché io quando vedo delle scene a Napoli in tre sul motorino senza casco e un vigile all'angolo che non fa neanche una piega, vuol dire che siamo proprio non c'è più nessuno che comanda. Sì, anche da questo punto di vista è un'esperienza diretta, benché io ami moltissimo Napoli, è vero che insomma da questo punto di vista c'è un po' di anarchia anche sui motorini. Io stessa anni fa, magari d'estate, ci sono anche andata in tre e non succedeva niente. Se lo facevo a Milano mi fermavano subito, mi sequestravano il mezzo. E c'è Riccardo da Roma. Sì, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te. Ascoltavo proprio questa cosa dell'anarchia partenopea, che effettivamente è una caratteristica che è tutta del Golfo di Napoli. E io in realtà volevo, anche se però non attribuirei tutta la colpa dell'immondizia delle cose ai cittadini napoletani, assolutamente no, anzi io, apriamo subito una parentesi, a supporto di De Magistris, il quale comunque con molta buona volontà, una squadra eccellente, sta perseguendo degli obiettivi ambiziosissimi, e quindi laddove si presentano delle critiche anche sul fatto che si è espresso che in 5 giorni avrebbe risolto il problema, io penso che comunque merita e ha bisogno del supporto di tutti. Questo certo, comunque è meglio non fare certe promesse roboanti né da una parte né dall'altra. Assolutamente, no? Sì, assolutamente sì, possiamo perdonare, possiamo sicuramente dare tutto il supporto che merita, perché insomma l'obiettivo è ambiziosissimo. Volevo in realtà dare il mio supporto a Di Pietro, a quanto pare oggi sono molto supportivo. il nostro Di Pietro, dunque, lui si è espresso, o meglio, ha avuto questo colloquio con Berlusconi che ha generato tutta una serie di critiche, laddove però molto realisticamente, perché penso che l'atteggiamento di Di Pietro è realista, il fatto che si dica che non è di sinistra, addirittura lo si qualifica nemmeno, quindi di non è antennista, non è trasformista, è realista. Per me è realista. Cioè lui molto pragmaticamente ha detto che bisogna in realtà presentarsi con un programma, perché finito Berlusconi, finito nel senso insomma il suo periodo, quando sarà, insomma, quando sì, sarà, sì. Noi gli auguriamo lunga vita e tutto il bene possibile, ma insomma dici bisogna essere pronti con un programma serio, bisogna lavorare con un programma che sia di lungo periodo, un programma che vada ad investire anche i giovani. Per esempio abbiamo ascoltato una trasmissione poco fa dove 4 milioni di giovani sono ormai hanno lasciato il nostro paese, parliamo di i cosiddetti knowledgeable workers, cioè praticamente coloro i quali sono particolarmente qualificati e che sarebbero la linfa vitale del nostro paese e ci hanno lasciati per situazioni certamente migliori dal punto di vista della qualità della vita, logistico, sicuramente sono rimasti attaccati con il cuore al nostro paese, ma hanno difficoltà a rientrare, e dovrebbe cambiare non solo il nostro modo di operare nel mercato del lavoro, ma proprio di... Chiarissimo. Riccardo, perdonami, ma mi fanno fretta perché dico che abbiamo ancora qualche appuntamento, ancora tanti ascoltatori, non so, poi chiederò scusa naturalmente come sempre a chi non riesco a far entrare in trasmissione, però è il momento questo, andando al galoppo sempre come sentite, perché vuol dire che ci avviciniamo verso la fine e anche poi dopo fuggiamo immediatamente da lui. Stefano Andreoli, satira della Spinoza.it, blog satirico più cliccato dell'intero globo terracqueo, caro Stefano. Esattamente Roberto, esattamente. Che istantanea ci fai di questa settimana? Fa un gran parlare di Vendola. Vendola a me piace, uno che parla chiaro. Possiamo dire che Vendola è uno che dice baguette al pane e Gewürztraminer al vino. È proprio quella persona con quel linguaggio semplice. Vendola tempo fa indicò Rosy Bindi, sì. Rosy Bindi come possibile candidato del PD, dicendo della Bindi: lei è il nostro uomo. La Bindi disse esattamente così. La Bindi però respinse un po' questa candidatura di Vendola, dicendo che il leader c'è già ed è Bersani. E secondo me il fatto che la Bindi sia attenta a questi piccoli dettagli invece ne farebbe un ottimo candidato. Poi, visto che in questo c'è questa cosa della spazzatura di Napoli, si cercano soluzioni anche all'estero, vogliono i rifiuti di Napoli. A Norvegia si è rifatta sotto, ha detto: siamo pronti ad accogliere i rifiuti di Napoli, ora resta solo da convincere Gigi D'Alessio a fare una tournée in quel paese. Ma andiamo avanti. Convinceremo. Qualche notizia curiosa: arriva il reggiseno parlante. È una notizia vera. Cioè, quando metti dentro i soldi come facevano le nonne, ti dice: guarda che c'hai qua qualche banconota che hai dimenticato. Non lo so, arriva il reggiseno parlante, reggiseno parlante, finalmente sentiremo la voce della sinistra, potrebbe essere un modo, va bene, questa non era una gran battuta. Fatto vero in Svezia, curioso, capitato qualche tempo fa, studenti di medicina trovano sul tavolo della loro autopsia esercitazione il loro professore, che era morto poche ore prima. Pensa alla curiosità, al caso incredibile. Sono i famosi tagli al corpo docente. Questa è una cosa particolare. Chiuderei con l'ultima cosa. Sì, dai, l'ultima. Sì. Tatuatore tatua per scherzo un organo sessuale maschile sulla schiena di un ignaro cliente che chiaramente non poteva vedere e si è trovato alla fine questa sagoma di organo sessuale maschile, e non sapete il peggio, lo ha ricalcato. Molto bene, ecco, così possiamo censurare immediatamente Stefano Andreoli. Non è mai troppo presto, come si dice. E adesso invece ci accompagniamo verso l'altro appuntamento con la nostra linguista Valeria della Valle della Sapienza di Roma, la quale, cara Valeria, oltre a salutarti, ti sottopongo la parola faccendiere, visto che con la P4 qui si continua a parlare, si usa molto questo termine faccendiere. Si nomina una parola che molti considerano una parola recente. Beh, insomma, sappiamo tutti il significato nel linguaggio giornalistico, no? Ci si riferisce a chi svolge un'attività di mediazione in affari poco puliti, poco onesti. E in realtà la parola è tutt'altro che recente. Quando dico recente mi riferisco ovviamente anche agli ultimi decenni. La parola la usava già Niccolò Machiavelli nel 1513 nel Principe, proprio col significato di chi si dà da fare, specialmente in affari poco onorevoli, poco onesti. Quindi i faccendieri esistono da moltissimo tempo, addirittura da secoli. Ora non so se questa possa essere una consolazione per l'esistenza ancora oggi dei faccendieri, però insomma niente cambia purtroppo in Italia da molto tempo. Che faccende, grazie Valeria della Valle. Grazie cara Valeria. E ci sono ancora molti ascoltatori ai quali chiedo perdono e chiedo di chiamare nelle prossime puntate. Anche la prossima puntata avrà una puntata un po' particolare, uno specialissimo con un grande personaggio che sarà un po' diversa dal solito. Poi riprendiamo naturalmente sempre la nostra formula. Giampiero Mughini, mentre io sto per salutarti col tuo libro per la Bompiani, In una città atta agli eroi suicidi, Trieste, il caso Svevo, mi vuoi commentare il dramma, per esempio, della fine della storia tra Cluny e la Canalis, oppure che altra vicenda delle tante di questa settimana? Vogliamo passare a una domanda successiva? La Mussolini che se la prende con la Carfagna e dice una ministruccia perché doveva invitarci tutte alle sue nozze, noi del PDL invece niente, oppure la Gioconda che Louvre ha detto no non ve la diamo, Firenze la voleva in prestito. Ma ecco, allora parliamo di cose serie e parliamo della Gioconda. In questi 33 secondi, le opere stanno bene lì dove stanno. Il Louvre è raggiungibile da ogni parte molto facilmente. Non c'è nessun problema che la Gioconda faccia il commesso viaggiatore. D'altra parte, per primi i responsabili dei musei fiorentini hanno riconosciuto che quell'opera eccezionale sta bene dove sta e non si purtroppo deve muovere di un centimetro. Grazie Giampiero Mughini. Giampiero, a presto anche a te. Vi ricordo che potete riascoltare tutta la puntata sul sito di radio24.it oppure sulla pagina Facebook Non ci sono più le mezze stagioni, più o meno da lunedì. Da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti a tutti.